Sotto il limite del cielo è una serie reportage in 5 puntate con testimonianze, memorie e interviste ad artiste, organizzatori, spettatori e staff del Bethlehem Festival Site Specific, tra Beit Jala, Betlemme e Hebron. Una serie audio in cui il teatro, come luogo di incontro tra identità, memoria e consapevolezza, si declina in uno strumento di ricerca artistica e resistenza in Cisgiordania. Bethlehem Festival Site Specific è il festival di teatro che ha ospitato la performance Footloose della compagnia teatrale Teatro in Gestazione. Il teatro, come strumento di conoscenza e scoperta, diventa spazio di incontro con il popolo palestinese. Questo è l'inizio di una storia, ma per raccontarla è importante testimoniare e farne parte. Footloose. Sostiamo nel parcheggio dei taxi dove Footloose avrà la sua parte conclusiva. Lì vicino c'è una struttura a due piani, Center for Cultural Heritage Preservation, in cui assistiamo ad una performance. A fine spettacolo decidiamo con Al Salam la posizione degli speaker per il finale della nostra performance. Torniamo a Beit Jala, pranziamo con un sandwich con falafel. Verso le 13:40 scendiamo e andiamo verso la sala prove. Tagliamo le corde con cui allacceremo i mattoni ai piedi dei partecipanti. Verso le 14:15 iniziano ad arrivare i ragazzi e le ragazze. Alle 14:30 facciamo un'ultima prova prima di andare in bus verso Betlemme. I ragazzi sono entusiasti e un po' tesi, anche noi. Arriviamo vicino alla piazza da cui partirà la marcia. Ognuno dei partecipanti porta con sé il paio di mattoni affidato. Una volta giunti a Manger Square, gli indichiamo il percorso della marcia. 20 minuti prima dell'inizio della performance, iniziamo ad allacciare i mattoni. Non è semplice, ma la marcia inizia. Il pubblico dietro assiste e segue. I residenti e i commercianti in Milk Grotto si affacciano, sorpresi e scossi dal rumore che emettono i 22 mattoni sul selciato di Betlemme. Quando cominciamo a scendere le scale di Dar City a Aziz Stairs, un canto sale spontaneamente dai vicoli. Il pubblico fedele alla marcia intona canti popolari per spingere i ragazzi a continuare, nonostante la fatica e il peso della traversata sotto il calore del sole. Da questo momento la performance si apre in una maniera commovente, intrisa di forza, rabbia e consapevolezza. Siamo dentro un movimento umano, di gioia, che nel canto urla melodicamente la sua presenza e la sua devozione alla cultura in cui si identifica. Una volta superato il Center for Cultural Heritage Preservation, arriviamo al parcheggio dei taxi. I ragazzi si dispongono nella zona predisposta. Comincia la performance in slow motion. Il pubblico è di fronte, a circa 10 metri, al riparo dal sole sotto ad una tettoia. Lo slow motion si conclude con la distruzione dei mattoni che provoca una reazione gioiosa nel pubblico. Footloose si libera nuovamente. La performance si conclude con la musica scelta dai ragazzi, che li libera in un altro ballo e invitano il pubblico a condividere con loro la danza sulle macerie. Siamo tutti esausti, ma felicissimi della performance. Il festival però continua. Noi preferiamo restare fuori per fare analisi e distenderci dalla tensione. Scendiamo un vicolo per poi salire verso un altro spazio, un'altra struttura che accoglie un'associazione che si occupa di persone con disabilità. Marina ci spiega che ai lati dello spazio predisposto alla seduta per il prossimo storytelling ci sono dei banchetti con dei prodotti realizzati da queste persone che possono essere comprati in modo da aiutare tale associazione. Lo storytelling di Maeda Sobi con Bokje finisce e il pubblico si ferma ad osservare i diversi prodotti in mostra. Candele artigianali, bigiotteria, olio, dolci con noci, souvenir di vario genere. Il sole inizia a colorare di arancione le abitazioni che si ergono sulle colline di fronte. Una bandiera palestinese in lontananza sventola. Alle 18:50 comincia un'altra performance in uno spazio abbandonato, ci sono due attori che si spostano e si raccontano tra le macerie, e noi, pubblico, con loro. Siamo arrivati al Dar Scafi, una casa abbandonata vicino a Manger Square, quando I Was There di Motazem Abu Hassan è già cominciato da qualche minuto. Buio, qualche candela fa da contrasto con il blu della sera che fa da sfondo ad una finestra rotta. La situazione è incarnata dalla continua sofferenza del protagonista della storia, dalla deportazione e dalla prigionia. La fine dello spettacolo segna anche la fine di questa giornata di festival. È notte e insieme ai volontari e al resto del gruppo raggiungiamo il pullman che ci porta all'Angels Hotel, dove si cena tutti insieme. Non manca la foto finale, stanchi ma tutti sorridenti. L'indomani ci dedichiamo al trasferimento dei file raccolti nei giorni sul nostro drive, disattivazione del contatto Gmail dai nostri dispositivi negli uffici della Lara Theater. Preparazione delle valigie. Riascoltiamo in stanza una delle ultime registrazioni fatte il giorno precedente. Sono Marina Johnson, sono una regista e studiosa e sto conseguendo il dottorato di ricerca all'Università di Stanford, negli Stati Uniti, in California. Sto preparando la mia tesi sul teatro palestinese. Ho sentito parlare della prima edizione, ma non ho avuto modo di esserci e vederlo. Ciò che mi sta colpendo di più del festival e del lavoro della Lara Theater è il modo in cui il pubblico sia disposto ad affrontare il viaggio. Sia che si tratti di teatro per bambini in tournée in diverse città e villaggi, sia che si tratti di questo festival di teatro site-specific, che va da un luogo all'altro. E si fida davvero del flusso che ci porta all'interno o all'esterno, o in piedi o in movimento, da un luogo all'altro. È come se il quartiere si riunisse per il luogo, quindi è una cosa che amo particolarmente. Ho alcuni spettacoli preferiti del festival, ma li amo tutti. Per me è molto importante vedere come il linguaggio della narrazione delle storie viene tramandato. Negli Stati Uniti ho sempre avuto da ridire sul modo in cui viene insegnata la storia del teatro. Ci viene insegnata la storia dei greci e dei romani, e a volte quella africana, ma non si accenna mai alla storia medio orientale. Tuttavia, vedere gli Akawati qui vestiti con il tradizionale tobe o con il costume da uomo è davvero bello e particolare, perché aiuta a mostrare il lignaggio della narrazione che si muove e continuerà a muoversi al di là del tipo di spettacolo. Come si trasforma nel passaggio a opere in stile classico o tradizionale che seguono un arco narrativo più lineare. L'ultimo spettacolo, I Was There, che abbiamo visto questa sera, ha dato l'impressione di giocare con il tempo e lo spazio in un modo diverso e di utilizzare una struttura forse un po' post-traumatica, che è stata anch'essa entusiasmante. Siamo sull'aereo che ci porta in Italia. Abbiamo deciso di partire da Beit Jala 5 ore prima del volo. Ci ha portati lì lo stesso autista dell'andata. Abbiamo affrontato 4 checkpoint. Il primo è avvenuto a 1 chilometro di distanza dall'area aeroportuale. Eravamo stati preparati a questo momento, ma il nostro corpo non poteva nascondere la tensione quando dei militari israeliani armati hanno aperto la portiera del taxi su cui viaggiavamo. Ci hanno chiesto i passaporti, chi eravamo, dove eravamo stati ospiti, cosa avevamo visitato e quali erano i nostri bagagli. Dopo averli controllati, ci hanno chiesto se qualcuno aveva fatto i bagagli per noi. Noi rispondiamo ad ogni domanda, esattamente come ci era stato consigliato di fare. Siamo 3 amici in visita a Betlemme e Gerusalemme, per visitare i luoghi in cui è nato ed è stato Gesù. Come ad un'interrogazione passata con la sufficienza, il giovane professore, armato in tuta verde, ci restituisce i documenti e fa un cenno al tassista che possiamo proseguire verso l'aeroporto. Ripetiamo la stessa scena per altre 3 volte. I nostri passaporti passano di mano in mano, accompagnati da domande sempre più particolari, e noi, come da copione, siamo 3 amici, abbiamo visitato Betlemme e Gerusalemme. Non possiamo dire tutta la verità, ci farebbero perdere ulteriore tempo e probabilmente anche l'aereo. È questo il loro obiettivo, farci perdere la pazienza. È necessario omettere molti dettagli e ricambiare la finta cortesia che ad ogni checkpoint ci costringe a recitare questa pantomima. La nostra preoccupazione è il sequestro dei nostri dispositivi, computer e macchine fotografiche. Sapevamo che avrebbero potuto farlo. Arrivati all'ultimo controllo, aprono tutti i nostri bagagli, rovistano tra i nostri vestiti, ci domandano perché abbiamo comprato queste sciarpe, riferendosi alle kefie palestinesi. Per chi sono? Per mia madre e mio padre, mi sembravano carine come regalo. A questo punto la tensione sale e diventa rabbia. Perché loro sanno che ti stanno costringendo a negare. Ti stanno umiliando e non vogliono che tu faccia ritorno. Superati i controlli, ci dirigiamo verso il gate. Attraversare un aeroporto non era mai stato così disturbante. Passiamo davanti a un muro di calamite, tutte marchiate Israele, blu e bianco. Sono circa le 16:30, i nostri bagagli sono riposti sopra le nostre teste. L'aereo è quasi interamente occupato da turisti e turiste israeliane, famiglie con bambini. Pensiamo alle parole dette da Gerias e Natalie, entrambi scenografi. Lui vive a Praga, con una tesi sulla regia del teatro, e lei, invece, ad Amman, in Giordania. Scenografa per l'Art Department nell'industria cinematografica. Entrambi sono parte integrante dello staff. Ci siamo conosciuti il primo giorno del festival e con loro abbiamo stretto una sincera amicizia. Dal 2010 lavorano con la Lara Theater, prima come tirocinanti. Dopo 6 anni di volontariato e di formazione teatrale si sono specializzati nel 2014. E infine hanno scelto di fare un corso di scenografia per conseguire un altro diploma nel 2016. Ad oggi ognuno ha preso la propria strada lavorativa lontano dalla Palestina. Si tratta di aprire le menti e gli occhi delle persone, vedere queste terre storiche, queste case, questi spazi, soprattutto delle persone che se ne sono andate a causa di problemi politici o per l'immigrazione forzata. Perché sappiamo che ci sono tante famiglie che vivono fuori dalla Palestina e hanno ancora la chiave del ritorno, ma nessuno ritorna e vive qui. Queste case sono chiuse e vuote. Ci sono persone che hanno perso le terre, hanno la chiave, ma queste case vengono occupate da persone che non sono palestinesi. È un problema davvero enorme che stiamo affrontando qui a Betlemme. Le persone si sposano e mettono al mondo dei figli. Hanno bisogno di costruire case. Hanno bisogno di costruire. Ecco perché parte di questo festival è importante. Dà alle persone un nuovo sguardo sui propri spazi, sulle proprie case. Si lavora molto sulla consapevolezza culturale delle persone. Con la Lara Theater si va nelle scuole, si fanno spettacoli per i bambini, nei villaggi, si va dappertutto, attraverso la cultura e la pratica del teatro. L'attività teatrale con i bambini ha prodotto centinaia di attività, diventa necessaria per raggiungere chi soffre a causa dell'occupazione, che la maggior parte delle volte non può essere raggiunto, soprattutto se andiamo in un posto dove l'occupazione israeliana impedisce loro la libertà, ostacola il loro diritto a praticare cultura e vivere il teatro. Quando andiamo lì, loro sono molto assetati di vederci e di imparare. Questo fa parte della nostra missione e penso che sia speciale per noi palestinesi avere questo messaggio, che teniamo dentro di noi perché innamorati di quello che facciamo, ma anche innamorati di diffondere e portare determinati messaggi alle persone che non hanno bisogno di vedere solo e sempre violenza, bombardamenti, o che non hanno acqua, non hanno tecnologia, non hanno mezzi di comunicazione. A volte ci vedono come degli stranieri, perché non preparati e aperti a quello che stiamo facendo. Vivono sempre in questo modo folle, che non riusciamo ad immaginare di vivere ora sulla nostra pelle. Quando vediamo la felicità nei loro occhi, è quello che vogliamo. Come se potessimo sentire la differenza che facciamo. O quando i bambini, mentre giocano, parlano delle loro vite, toccano i sentimenti, toccano i loro problemi, i loro bisogni e poi continuano a giocare con noi. Iniziano a condividere con noi quello che sentono, quello di cui hanno bisogno, quello che si aspettano dal futuro. E a volte sono fortunati perché quando andiamo con il teatro si può vedere che l'influenza dei media è molto esigua su di loro, sulle loro menti e sul loro atteggiamento, quindi sono ancora in una fase fertile di apprendimento. Ci sono sempre questi due lati per i quali non sai cosa provare. Tutti questi estremi sono davvero troppo. Torni da lì e non sai cosa dire. Abbiamo sentimenti contrastanti, non sai cosa provare. È davvero molto strano. Senti che devi lavorare sempre di più solo per fare un altro tentativo per e con loro. Perché a volte sentiamo che proprio questi bambini possono essere qualcosa nel futuro. Intravedi lo scrittore, l'attore, il regista, il clown. Sono dei bambini potenti e magici. L'aereo decolla e lasciamo Tel Aviv. Arriveremo alle 19:30 a Capodichino, Napoli. Le albe, i tramonti, la brezza mediterranea, il loro mare, gli olivi, le bugambille bianche, i falafel, i fichi, il caffè, il tè, i dolci di sesamo, l'olio d'oliva, la tan, la dabka, la danza, la musica, l'archeologia, la scuola, l'università, la solidarietà, l'amore, i sogni, la resistenza, la censura dei nostri ricordi. Ora il cielo non nasconde nulla. Si leggono i confini da un altro punto di vista, i confini di storie che non possono restare in silenzio e che non cesseranno di resistere, non cesseranno di dire la verità. 30 luglio 2023.